l'asfalto sotto le ruote bagnate dall'alcol. Un souvenir 200 va lanciato in cerca di serenità. Casa tu mi aspetti e forse dormi già. Basterebbe fermarmi un attimo per scoprire che quel che cerco ce l'ho già qua. Ma tuo figlio è cieco e non lo sa. Ma tuo figlio è cieco e non lo sa. Solo non riesco a spiegare.